Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Europea perché di temi europei e perché ci concentriamo soprattutto sulla stampa europea. Non è possibile naturalmente non parlare degli attentati di Bruxelles. È passato qualche giorno e gli animi sono ancora molto caldi, c'è pochissima chiarezza sia su quello che è successo prima degli attentati sia su quello che è successo dopo. Abbiamo capito che Bruxelles e il Belgio sono meno organizzati di altri paesi in quanto a intelligence e coordinamento tra le varie forze di polizia, che anche a Bruxelles e anche in Belgio, come in moltissimi altri paesi, noi lo sappiamo molto bene, sono di tanti tipi le forze dell'ordine e non sempre riescono a coordinarsi. Lo stesso vale per i servizi segreti. E poi c'è l'altro grande tema, potremmo dire macro, del coordinamento invece a livello europeo. Però mi è sembrato particolarmente interessante, ripeto, gli animi sono ancora molto caldi e ci sono naturalmente tutti i parenti delle vittime che forse fanno fatica a ragionare a freddo sulle cose, però noi che magari abbiamo avuto la fortuna, perché solo di questo si tratta, di non essere coinvolti direttamente, forse a noi spetta il dovere di ragionare un pochino di più sulle cose. In questo caso lo ha fatto anche il Guardian, che benché negli anni scorsi, ricordiamo gli attentati nella metropolitana di Londra, naturalmente sia stato colpito come paese, nel senso di Regno Unito, dal terrorismo islamico, questa volta non c'entra con appunto questa ondata di attentati, prima quelli di novembre a Parigi e ora in Belgio. E allora il Guardian, con il giornalista Jason Burke, e l'intervento lo trovate su Internazionale di settimana scorsa, si chiede perché proprio Bruxelles. In fondo è vero, sì, pensiamo a Bruxelles come la capitale europea, come la sede di molte, non tutte, le istituzioni europee, ma non forse la maggior parte di noi, specie se non l'ha frequentata, non sapeva che fosse potesse essere questo covo di minoranze così aggressive e pericolose. E allora scrive Jason Burke: il Belgio può sembrare un posto improbabile come epicentro della violenza estremista in Europa, ma la grande concentrazione di radicalismo in questo piccolo stato ha le sue ragioni. I problemi che spingono le persone alla militanza sono gli stessi in tutto il mondo sviluppato e in quello in via di sviluppo. Possono essere più e meno gravi, ma hanno sempre le stesse conseguenze. In Belgio convivono una minoranza islamica di considerevoli dimensioni e poco integrata, un alto tasso di disoccupazione giovanile tra i musulmani, la disponibilità di armi, reti di comunicazione e trasporti ben sviluppate, autorità poco attente e con scarse risorse e instabilità politica. Come in altri paesi, la diffusione di ideologie violente attraverso i social network, anche se non incoraggia direttamente alla violenza, alimenta una visione del mondo carica di odio, intollerante e conservatrice. E appunto trovate poi questo articolo che offre numerosi spunti di riflessione. Naturalmente, tra l'altro, ne abbiamo parlato anche nella rassegna stampa di lunedì scorso, perché sapete che lunedì, il lunedì di Pasqua, i quotidiani non erano in edicola, quindi abbiamo cercato di rifarci un po' con gli articoli usciti sui settimanali nei giorni precedenti. Abbiamo citato molti articoli da giornali del Belgio che si sono interrogati in tutti i modi e vi segnalo per esempio, e lo trovate sempre su Internazionale, dalle sue, che è uno dei principali quotidiani belgi, la nuova strategia dei jihadisti. Dopo alcuni insuccessi e per timore di perdere la capacità di reclutamento, il gruppo dello Stato Islamico ha allargato il campo di azione e scelto altri bersagli. Passiamo alla Turchia. I temi sono collegati perché sapete che anche la Turchia è stata colpita da tantissimi attentati negli ultimi mesi, quindi il tema del terrorismo, anche se lì forse più che di matrice islamica, almeno così continua a sostenere il governo del presidente Erdogan, è di matrice curda, quindi è un terrorismo politico interno, con tutte le rivendicazioni che il PKK e partiti ancora più estremi che vorrebbero una maggiore indipendenza per la minoranza curda. Ecco, lì forse è più riconducibile a quel tipo di violenza, di recriminazioni, però comunque la Turchia il terrorismo lo conosce molto bene e soprattutto in qualche modo la questione dei migranti migranti, che spesso sono migranti economici, se parliamo dei migranti che arrivano dalla Siria, però non sono solo migranti economici, si intreccia, come sappiamo, con quella del terrorismo. E allora su Efemerida Ton Syntakon, un quotidiano greco, è apparso questo editoriale intitolato Speranze calpestate. La Turchia non è un paese sicuro e i rimpatri violano i diritti umani. L'accordo di Bruxelles non è una soluzione, perché in tutto questo, anche, ripeto, legittima confusione che ha preso tutti su come reagire anche agli attacchi terroristici, c'è stato questo accordo con la Turchia che prevede una ulteriore erogazione di fondi da parte dell'Unione Europea alla stessa Turchia, senza porre condizioni su invece quello che la Turchia dovrebbe fare per aumentare il rispetto dei diritti umani. Tra l'altro ricordiamo che anni fa, prima che Erdogan radicalizzasse, cancellasse, tradisse gli ideali di Atatürk, che è il padre della Turchia moderna, la Turchia aveva di fatto intrapreso un percorso di avvicinamento all'Unione Europea e molti speravano che sarebbe stata davvero questa cerniera tra Oriente e Occidente, tra cultura islamica e cultura cristiana. Così non è stato. Adesso sul piatto Erdogan ha, pare, messo anche, oltre alla richiesta di miliardi di aiuti economici per rimpatriare alcuni profughi e accoglierne altri, in particolare, come dicevamo, dalla Siria, ha messo anche la riapertura dei negoziati per l'ammissione della Turchia all'Unione Europea. Sulla questione del Belgio trovate anche su Vox Europe, il sito che cito sempre, che è www.voxeurope.eu, numerosi altri articoli, uno per esempio sempre di L'Essoir, di Christophe Berti, che è caporedattore di L'Essoir, che questa volta proprio invita i belgi, i suoi connazionali, a riflettere su quello che è successo. Il Belgio alle prese col terrorismo, dopo l'emozione apriamo un dibattito sereno. La vignetta che illustra questo articolo è di Hergé, il famoso disegnatore soprattutto di fumetti belga, e l'autore di tutti lo conoscono, credo, anche in Italia, di Tintin, e il disegno è appunto di Tintin che si copre la faccia con le mani come gesto di disperazione, e il suo cane che sta chiaramente ululando, quindi insomma una disperazione ben resa anche da questa vignetta. È disperazione, certo, perché soprattutto quando non si capiscono le cose, poi davanti all'orrore degli attentati e con questo tipo di bombe, poi, che avevamo visto solo in Medio Oriente, come sapete, riempite di chiodi e di altre componenti per fare il maggior danno possibile, è la disperazione, la reazione. Però appunto c'è ancora chi cerca di chiamare tutti a una riflessione. Sempre su Vox Europe, a proposito di sogno europeo, che in molti dicono gli attentati, il fondamentalismo, ma non solo, anche la crisi economica prima ancora degli attentati, abbiamo visto prima citare la disoccupazione giovanile tra i giovani musulmani belgi, ma sappiamo quanto sia alta in generale la disoccupazione giovanile in Europa. Uno dei grandi padri fondatori e sostenitori di un ideale di Europa era Jürgen Habermas, il filosofo scomparso da poco. Lui viene ricordato appunto quasi come un profeta, perché molte dei punti critici che aveva indicato e di quelli che lui vedeva come i pericoli all'orizzonte per la nascita, la crescita dei populismi, la rinascita dei nazionalismi e quindi la difficoltà di mantenere insieme l'Unione Europea, poi molte di queste cose si sono avverate. E qui torna anche il tema della riforma delle istituzioni europee. In molti parlano di un deficit di democrazia delle istituzioni europee. Sappiamo che abbiamo un Parlamento che di fatto non legifera, o meglio legifera, ma poi le leggi non sono direttamente applicate. Abbiamo un Consiglio europeo e una Commissione europea, che sono due forme di governo dell'Unione, anche qui secondo molti poco democratiche. Quindi il tema della riforma, speriamo che magari finita un po' l'emozione degli attentati si ricomincia a parlare anche di questo. Cambiamo un pochino argomento, perché sappiamo anche quanto il tema delle banche sia stato al centro, abbiamo parlato di temi economici del dibattito europeo. I giornali tedeschi sono tornati sulla questione delle banche e anche Financial Times ha analizzato un po' alcune delle nostre banche, probabilmente purtroppo prendendo spunto anche dal cattivissimo esempio della Popolare di Vicenza, che sapete nei giorni scorsi, in particolare sabato sabato scorso, con poi la cronaca, l'avete letta sui giornali di domenica, ha varato un nuovo piano industriale, un aumento di capitale, c'è un nuovo amministratore delegato, ma quanti soldi sono stati di fatto buttati negli anni scorsi e anche quanti compensi sono stati elargiti con una certa generosità a scapito poi dei piccoli risparmiatori. Di questo parla Financial Times, ci sono state molte reazioni con il solito ping pong: no, non è vero, nelle banche italiane non c'è un malcostume più diffuso che in quelle di altri paesi, sono solide tanto quanto gli altri. Insomma, il dibattito sui sistemi bancari va avanti. Un'ultimissima segnalazione ve la faccio dalla Süddeutsche Zeitung, dove si è parlato di nuovo di come punire i terroristi una volta che vengono individuati, e qui torniamo a un altro grande tema. Non esiste una procura europea, anche di questo si sta discutendo molto anche qui a Radio 24, non esistono leggi europee sul terrorismo o sui cosiddetti foreign fighters. Probabilmente questo è un altro tema su cui ci vorrebbe molto più coordinamento e molta più volontà a lasciare un pizzico di sovranità nazionale per avere un maggior coordinamento di polizie e servizi segreti. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.